Anastasia, figlia di Vera ed io, ci siamo occupate a quattro mani di approfondire il significato simbolico di due fiabe le cui protagoniste sono donne di neve. La fiaba slava Snieguročka, la fanciulla di neve, da snieg che significa neve, da noi tradotta come nevina, e la fiaba scandinava, la regina delle nevi. Sono entrambe fiabe iniziatiche dal significato molto profondo, ancestrale, legate alla ruota del tempo e legate alle presenze pagane, diciamo, della storia umana, e hanno molto in comune. Di seguito vi proponiamo l'ascolto della classe che abbiamo tenuto, quindi la registrazione live dei due interventi e vi auguro buon ascolto. Vi ringrazio, sorelle, di darmi la possibilità di parlare di questa fiaba e di questo personaggio che potrebbe essere molto incompreso. E soprattutto sono felice e molto emozionata perché non poteva essere il momento migliore in assoluto nell'anno di parlare di questa storia. Perché oggi è 30 gennaio. Stiamo entrando in un periodo di Sabbat, in una data della ruota dell'anno, che arriverà domani, dopodomani, e dura ancora qualche giorno. E questa data, chi la conosce sul calendario Wicca, si chiama Imbolc. È strettamente legata al personaggio Snieguročka, ragazza della neve, e tutta la fiaba in generale, perché questa non è una semplice fiaba, è un mito, è una fiaba misterica, quindi legata al mistero della ruota dell'anno. Io non so per quanto voi conoscete la trama di questa fiaba. Credo che magari non tutti la conoscono, quindi ho deciso di esporre tenere questa classe, esporre questa fiaba partendo dalla parte più profonda, più esoterica e misterica, e nel frattempo raccontare la trama, che cosa è successo, che percorso ha fatto l'eroina, la protagonista della fiaba Snieguročka, che è appunto la ragazza della neve. Tutta la fiaba, per raccontare tutta questa fiaba, bisogna partire da una premessa molto particolare della ruota dell'anno, che consiste di 8 punti, di 8 feste, di cui 4 sono solare e 4 sono solare e 4 sono a metà di queste solare. E queste 8 feste, questa ruota dell'anno, è stata in un certo senso condivisa tra due grandi culture che regnavano in Europa, un pochino anche nell'Asia, ma soprattutto in Europa, prima di arrivare al cristianesimo. È stata divisa tra due grandi popolazioni, due aree culturali, una celtica e l'altra invece slava, antica slava. Quattro misteri, quattro feste appartenevano a una cultura celtica prevalentemente e quattro della cultura slava. La fiaba di cui parliamo prende inizio proprio ad Imbolc, più o meno appena prima di Imbolc, più o meno tra il 21 dicembre e il 1 di febbraio. Praticamente stava arrivando in questo periodo, come siamo noi adesso. E cosa dice questa fiaba? Cosa dice questo mistero? Oltre a quella ruota di cui abbiamo parlato, esiste ancora una ruota sciamanica che è condivisa da tante culture e appartiene alla, si chiama ruota di quattro elementi o croce sciamanica, è divisa anche questa a quattro parti, dove ci sono elementi che appartengono. Le appartengono alcuni significati e ci sono tre ruote: ruota interna, dove si svolge la nostra vita, ruota centrale, dove si svolgono le religioni, culti e miti, e ruota esterna, che sono quattro elementi pure. anche questa ruota è stata divisa in quarta parte e c'erano delle culture addette proprio di portare avanti queste parti della, questi segmenti, queste parti della ruota, di cui proprio la cultura slava e cultura celtica in due, perché per girare la ruota bisogna girarlo in due, da due parti, giravano sull'asse terra-fuoco, di cui la cultura celtica girava la parte terra e la cultura slava girava la parte fuoco. Perché ve lo dico? È molto importante. Perché qui, sulla parte fuoco, come è stato diviso? Fuoco, amore, terra come odio, ma odio non nel senso, non nel nostro senso di, diciamo che non emotivo, è nel senso di quello che non mi appartiene, quello che io ignoro, quello che io escludo. La vita e la morte. E intorno a questi quattro elementi gira la vita umana. E la parte slava portava avanti questa asse, quindi amore, che poi era legato al bene e era legato al fuoco. Quindi la cultura slava era molto preoccupata a unire tutto con tutto. Anche qui amore non è amore carnale, non è amore madre-figlio, non è amore umano, ma amore come si può collegare tutto con tutto, senza includere escludere niente, includendo tutto. Era legato all'asse fuoco e il fuoco porterà poi la sua parte importantissima in questa fiaba, in questo mito, in questo mistero. Quindi la Snegurečka na nasce ad Imbolc. Cosa succede? Che questa ragazza, fanciulla della neve, che ha più o meno 15 anni, una ragazza giovanissima, ma già formata, sta parlando con i suoi genitori, padre Gelo e la madre Primavera. Che padre dice: ragazza mia, io ti ho custodito finora, ma adesso ti devo lasciare perché devo andare via da questa terra come il gelo va via in Imbolc, dando spazio alla ruota che gira e l'altra stagione. Sta arrivando mamma Primavera e dice: guarda, ragazza mia, stiamo entrando in un periodo particolare e se vuoi, se volete, dicono entrambi i genitori, se vuoi sopravvivere fisicamente, ti conviene a rimanere nella foresta. La ragazza invece che si è appena svegliata e si è svegliata perché aveva intrasentito le canzoni dei umani della tribù, le chiamano Berinzie, arcaica slava, che viveva secondo questo comandamento, vita, bene, amore, il fuoco. E ha ascoltato queste canzoni e dice: no, io sono talmente attratta dalle canzoni che io voglio andare verso gli umani. Il padre la avverte, dice che andrai verso la vita, andrai verso la fine della tua vita. La mamma la ammonisce, dice: guarda che la decisione che prende può portarti verso la fine. La ragazza dice: no, io vorrei andare verso gli umani perché sono attratta dalla bellezza dei canti. Mi sveglia qualcosa in me che mi fa sciogliere. Il padre, disperato, lascia lo spazio e se ne va nei tempi più negli spazi nordici, nei tempi più freddi. E questa ragazza hanno deciso, i genitori l'hanno deciso affidare a una coppia particolare, coppia marito e moglie che non hanno i figli, che secondo la legge della arcaica dei slavi erano coppie che quelle che non hanno fatto i figli vuol dire che non hanno contemplato completamente il loro dovere verso la vita. Sono ri rimasti non fertili, quindi non erano incluse in tutti i effetti alla decisione della vita della tribù e vivevano sempre più tra la foresta e il villaggio. Al confine, E quindi erano come se fossero non completamente umani. E i genitori, come per dire, per fare questo passaggio alla ragazza dalla condizione della foresta alla condizione umana, l'hanno affidata a questa coppia non fertile, che si rivelano poi all'interno incapaci di introdurla. Cioè, una coppia che cercava poi sfruttarla in qualche modo, di trarre vantaggio della sua bellezza, della sua particolarità, della ragazza pura, bianca, candida, brillante, innocente come la neve e come il volto della Brigitte, il volto della fanciulla della Brigitte che ha Dimbolk, che proprio prima di febbraio si sveglia e c'è la sua festa. Lei si sveglia da sotto la neve, esce alla vita e Snigurečka qui appartiene a questo volto della Brigitte e proprio è il suo volto. Andiamo avanti. Lei entra nella tribù delle umane. E qui faccio ancora una parentesi, perché per capire che cosa è realmente successo in quella fiaba, se si poteva prestare attenzione nei discorsi del loro capo tribù, del loro re e il suo aiutante, il suo vice, il suo consigliere. E lì veniva fuori la parte esoterica. Il re diceva: guardate che c'è qualcosa che non va nel mio regno, c'è qualcosa che non quadra già più o meno da 15 anni, perché l'estate è freddo e la frutta non riesce ad andare a maturazione. I nostri cuori si sono raffreddati, i moli e i mariti non siamo nel modo così appassionato. C'è qualche freddezza, la gente pensa di più a guardare bene la ricchezza degli altri o essere invidiosa e gelosa. E il nostro re sole, Yarilo, le chiamano Yarilo, non è contento di noi e quindi si sta celando da noi. C'è qualcosa qui che non va già da tanto tempo e quindi i nostri cuori influiscono sul nostro contatto con il nostro fuoco, sulla nostra divinità del sole, che non è contenta di noi. Cosa succede? Questa ragazza, questa Snigurečka, entra nella comunità e cominciano a venire le insidie. Le donne, le ragazze, le fanciulle sono gelose di lei perché i ragazzi, i loro fidanzati, sono ammaliata dalla sua bellezza, dalla sua purezza, ingenuità, però lei non ha. Il suo cuore è freddo, lei continua a dire: il mio cuore è freddo, a me non piace nessuno, io non so dire, io lo guardo, ascolto, ma no, lei non trova nessun piacere né vantaggio da creare questo scombussolamento tra i fidanzati. Creare gelosia nelle ragazze. Lei era indifferente e le piaceva soltanto ascoltare le canzoni di lei, di quel ragazzo, di Pastorello che suonava, cantava d'amore e era molto svegliava il cuore delle donne che era attratto da lei, ma non riceveva mai niente di caldo da parte sua, soltanto la freddezza. Fredda, come per dire, amore innocente da bambina, come lui la rimproverava. Arriva il punto, tra l'altro, i genitori adattivi di Snigurečka la rimproveravano, dicevano che dovresti essere più morbida, dovresti accettare i corteggiamenti, perché così i maschietti, i corteggiatori, i fidanzati ci portano da mangiare, da bere, ci portano le ricchezze e noi almeno traiamo vantaggio della tua presenza nella casa nostra. E lei diceva: ma a me questo non importa, io non lo so cosa fare, nessuno mi piace, il mio cuore è freddo. Poi cosa succede? Arriva un personaggio molto particolare che si chiama Misgir. Un mercante, un commerciante, come si potrebbe dire, delle terre lontane che apparteneva di origine alla tribù, ma si era staccato da tempo da loro, dal loro modo di vivere e viveva di commercio e di ricchezza. E quando è arrivato, avendo una fidanzata nella loro tribù, una certa ragazza cupava con cui si erano fidanzate secondo le tradizioni della tribù, che ogni ragazzo e ragazza, quando dichiarano che si piacciono, che si amano, possono amarsi, piacersi e fare tutto quello che vogliono, perché ormai davanti agli occhi della popolazione, della tribù e soprattutto della divinità naturale, delle divinità delle foreste, foresta, del sole, della terra, erano già fidanzate perché hanno dichiarato della loro spontanea volontà di esserlo. Lui arriva per sposarla, arriva verso la sua fidanzata che lo accoglie con amore, con piacere, con calore, dell'amore spontaneamente dimostrato. Ma lui guarda la Snegurečka, viene stregato e gli dice: no, io non ti amo più, io mi sono innamorato di Snegurečka, tu per me sei niente, io adesso non ti voglio più. Dal momento all'altro lui si stacca da lei. C'è da dire che Mesgir, il suo nome di questo fidanzato, di questo mercante, in slavo vuol dire ragno. E ragno era un essere che era venerato in casa perché c'era anche c'è un detto e c'è una credenza che ragno in casa porta soldi. Ma dall'altra parte era temuta perché ragno apparteneva sempre al mondo di al di là, quindi un personaggio molto particolare come Snegurečka, né qua né là, né appartiene al mondo di al di là né al mondo di umane, ma una specie di tramite, come anche quella coppia di genitori adattivi, Babil, le chiamavano Babil e Babiliha, lui e lei. Lui viene attratto da lei e vuole conquistarla, ma lei dice: ma io, il mio cuore è morto, cioè morto, è gelido, io non sento niente, io non provo niente. Ma su inesistente suggerimento dei suoi genitori adottivi, lei comincia a incoraggiare il suo corteggiamento. La ragazza, la fidanzata di Misgir, Kupava, vuole andare a buttarsi nell'acqua, vuole finire la sua vita, ma viene accolta da lei la vede e dice: no, no, no, ragazza, non fare così. Il tuo cuore è vivo. Per amore, il tuo cuore è caldo, ci sarà un'altra persona che amerai, non puoi finire così la tua vita per questa disgrazia. E questa ragazza disperata va nel loro sommo capo, va verso il loro re, chiedendo conferma e chiede di riportare la legge in questa tribù. Dice: non è la legge che quando lui e lei dichiarano spontaneamente il loro amore, e la loro promessa viene accettata e vista da tutti, non è legittimo da parte mia credere alle promesse. E re dice: sì, non è legittimo credere e tenere il cuore aperto e mostrare il proprio amore. Lui dice: sì. E lei dice: ma perché lui allora a questo punto mi ha rimproverato che sono svergognata perché ho dichiarato il mio amore, l'ho abbracciato con entrambe le mani, l'ho tenuto stretto al cuore, non ho tenuto mai nascosto, le ho conservato il mio amore soltanto per lui, ho sempre dichiarato. E lui mi dice svergognata, adesso mi lascia in questo modo per una ragazza che neanche lo ama, dov'è la giustizia? Il re allora va a chiamare lui, va a chiamare questo Mesgir. Mesgir va nell'erem del re e dice: sì, io sono colpevole, perché sì, ho fatto così, ma perché mi sono innamorato. Io non posso sposarla, Kupava, perché mi sono innamorato di Snegurečka. Il re dice a questo punto: tu meriti di morire, di essere ucciso per quello che hai fatto. Non si fa così, questo è contro la nostra legge. Ma noi siamo un popolo pacifico, noi siamo un popolo dell'amore. perché non possiamo ucciderti, non è nella nostra legge. E chiede a Copava: vuoi che lui ti sposa e ripara il suo delitto sposandoti? Lei dice: no, io non lo voglio sposare, io voglio amore, io voglio che mio marito mi ami, io voglio amare e essere amata, io non voglio questo matrimonio riparatorio. E allora Re dice a questo punto: tu sarai esiliato dal nostro popolo e nessuno di noi ti rivolgerà più la parola e non aprirà la tua porta, perché tu sei andato contro la legge naturale, la legge del nostro popolo, la legge dell'amore e del calore. E lui dice: sì, però se voi vedeste la Snegurečka. E arriva la Snegurečka, e se avete visto questo cartone animato, quando lei è entrata la bellezza, la purezza, la spontaneità, la genialità di una ragazza che ancora non è svegliata. E anche la re era ammaliato in un certo senso sedotto in un modo buono dalla bontà e purezza di questa ragazza. Ma siamo arrivate già al 21 marzo. Siamo arrivate in quel periodo e andavamo a Beltane. E lui ha detto: ok, va bene, facciamo così. Arriva Beltane, arriva questa festa dove il sole prende il sopravvento e dove noi cominciamo a entrare nella parte dell'altra metà dell'anno, parte solare, parte estiva. E per la nostra legge, a Beltane, noi facciamo i fuochi, noi andiamo nelle foreste, noi andiamo a fidanzarci, tutti ragazzi, ragazze, fanciulli e fanciulle devono andare nelle foreste in piena libertà, spontanea libertà, scegliersi fidanzato e fidanzata per poi sposarsi. E lui ha detto: ok, se qualcuno di voi, e il signor Cicco continuava a dire: io il mio cuore tace, io non conosco amore, mi piacerebbe, io vorrei tantissimo amare. Io vedo che sto creando scombussolamento qui tra vostro popolo che non riesco a evitare. Vorrei amare, ma non ci riesco, io non so cosa fare. E allora lei ha detto: chi di voi riuscirà a far diventare caldo il cuore di Snegurečka, allora riceverà il compenso, riceverà lode da parte mia, da parte di tutto il popolo. E Mesghiri e Leil, due persone, hanno detto: siamo noi. Leil è quel ragazzo pastorello che cantava, da cui Snegurečka, da canzone del quale Snegurečka era tratta, e Mesghir hanno detto: noi proviamo in questa notte far scaldare il cuore di Snegurečka. E stiamo arrivando a questo mistero di Beltane di 1º maggio, ma no, non avevo detto ancora un piccolo particolare, che quando madre primavera, salutava Snegurečka, le diceva: guarda, quando sarai in difficoltà, tu puoi chiamarmi in qualsiasi momento, io verrò da te. E dopo tutto quello che è successo, escono e Snegurečka va a cercare la sua mamma, dice: io, mamma, io con tutto il mio cuore vorrei provare amore, io vorrei sentire amore, vorrei sentire questo calore. E sua mamma le dice: mamma, primavera è arrivata, adesso guarda. Sai che conoscendo amore tu morirai, tu ti scioglierai, tu ti annienterai, tu non ci sarai più. E Snegurečka dice: no, io voglio conoscere amore, perché per me tutti cantano d'amore, tutti parlano d'amore, tutti sono innamorati, hanno qualcosa, sanno qualcosa che io non so. Io vorrei provare, per me un momento, un istante d'amore è più importante della vita così come sto vivendo adesso. E la mamma le ha detto: che okay, io ti do la mia corona di fiori e questa corona di fiori ti farà sentire questo amore. arriva la nota di Beltane e Nisgir comincia a inseguire la Snegurečka. Lei sfugge perché lui avrebbe voluto prima comprarla e poi prenderla con forza. Lei dice: no, non mi compri, io non voglio gemme, io voglio amore, ma io non sono innamorata. E sfugge, sfugge nella foresta dove spiriti della foresta la custodiscono, non la fanno inseguire, prendere. Poi lui la intravede, la vuole prendere con forza. Allora viene aggredita da questi esseri della foresta che difendono la sua creatura, uno come loro, uno mezza essere umano, mezza creatura strana, creatura di al di là. E solo quando lei decide di mettere questa corona in testa, la mamma le ha detto che la prima persona che vedrai, ti innamorerai. Mette questa corona e la prima persona che vede è Nisgir, perché lei che l'avevo inseguita poi aveva scelto e l'occupava, perché ha detto che l'occupava al cuore caldo come me, io ho cuore caldo come lei, io la amo soprattutto per la sua capacità di amare. E la Snegurečka ha messo la corona e la prima persona che ha visto è Nisgir e lei si è innamorata perdutamente di lui. Arriva il giorno, arriva l'alba, e loro entrano, loro come sempre cantano, ballano, suonano, e nel frattempo fanno queste rite misteriali di Beltane, e arriva Alba. E tutte le coppie che si sono rappacificate, che si sono rifidanzate, vengono sotto occhio del re dicendo che noi siamo fidanzate. E Kupava con lei sono fidanzate e viene Mjasgir e Snegurečka e dicono: noi siamo fidanzate. Arriva sole, arriva questo sole che cambia la stagione, cambia la rotta. Arriva quel fuoco che vennero loro a Yerila, e questo fuoco caldo tocca la Snegurečka e Snegurečka si scioglie dicendo: io non capisco, questa è una beatitudine o la morte? Questo è amore o la morte? E tutto intorno a me è cambiato, tutto con me, vicino a me, intorno a me ha preso dei colori stupendi. Ogni suono che sento ha una musica e melodia incredibile. Mi sto sciogliendo, mi sto sciogliendo. E lei si scioglie tra le braccia di lui, e lui, incapace di sopravvivere, essere estraneo, semi estraneo alla tribù, va a inseguirla nell'acqua, segue lei nell'acqua. E esce il sole e il mistero finisce con trionfo del fuoco, trionfo del sole, trionfo dell'amore, e il re proclama: finalmente sono finite le anime buie dei cuori freddi, finalmente la legge naturale si è ristabilita, finalmente amore e il calore nei cuori è ritornato. E viva e gloria al sole e tutto quello che è successo, perché è così che gira la ruota. Il sacrificio di Snegurečka e la sua morte è la morte simbolica della parte pura, candida, vergine di ogni fanciulla che dovrebbe morire per dare spazio all'altro volto della Brigitta, all'altro volto della donna, donna capace di calore, di amore, non è più immacolata, pura e candida, ma capace di amore carnale, capace alla passione, capace a poi in futuro, nei prossimi misteri, a concepire il figlio e spingere avanti questa ruota. E questa fiaba, a differenza di tante altre fiabe russe, ha pochissime varianti, pochissime. Quella che abbiamo visto è la più estesa, invece la variante più semplice, più come per dire, meno elaborata, era che quando è arrivato il mistero di Beltane, quando ci è arrivato il momento che a 1º maggio accendevano i fuochi e per purificarsi tutti fanciulli e fanciulle saltavano sopra il fuoco, lei è saltata come tutte le altre sopra il fuoco e quando era sopra il fuoco si è sciolta nel fuoco misteriale di Beltane, di Primo Maggio. Era proprio variante molto schematica, però esprime in pieno anche il senso di questo mistero e di questo sacrificio. Sacrificio di un volto per prendere l'altro volto, sacrificio del seme che deve morire per dare vita al germoglio, sacrificio della neve che deve sciogliersi per dare vita a tutto quello che c'era sotto la neve. E questa, il sacrificio e la fiamma della ragazza della neve. Anastasia, io sono sempre senza parole. Come riesci ad essere affascinante nel racconto di quella che è la tua cultura e come sei brava nel trasmettercela? Devo dire che come abbiamo cominciato a parlare della Snegurochka, che tra l'altro in italiano ho visto che viene tradotta Nevina. È un nome bruttissimo, Nevina, è sicuramente più bello Snegurochka. Però mi è ovviamente per risonanza, fa parte del nostro metodo questa, quindi quando si presenta una figura poi subito se ne presenta un'altra, perché mi è venuta in mente La regina delle nevi, la fiaba di Andersen, che è del 1844, lui la scrisse nel 1844. Io su Andersen ho un grossissimo punto di domanda, perché conosco molte sue fiabe e sembra che alcune non siano scritte da lui, ma che siano state prese da culture più antiche. Perché ci sono alcune sue fiabe sono semplicissime, sono delle storie quasi banali, altre invece, se avete presente Mignolina, per esempio, è una vera e propria fiaba iniziatica, perché Mignolina prima viene rapita dalla rana e va nell'acqua, poi viene rapita dall'insetto e quindi vola nell'aria, poi va nella casa della topina e quindi va in terra e infine sulle ali della rondine va nella terra dei fiori del fuoco dove riceve le sue ali. Quindi è proprio una fiaba iniziatica questa creatura che diventa regina dei fiori e passando attraverso i quattro elementi. Quindi non è possibile che la stessa persona, sempre lui, Andersen, possa concepire delle fiabe che sono delle storielline per bambini e altre che sono delle vere e proprie fiabe iniziatiche, come la Sirenetta, per esempio, come i cigni selvatici, le Scarpette Rosse, per esempio, un'altra fiaba iniziatica tremenda. Quindi, secondo me, la Regina delle Nevi non è uscita dalla sua penna, ma lui in qualche modo l'ha recuperata e l'ha, diciamo, riproposta in forma di fiaba. Ve la riassumo molto brevemente, la fiaba della Regina delle Nevi, di cui c'è anche un bellissimo cartone animato in versione russa, proprio come quello della Snegurchka. I due bambini, Kai e Gerda, sono amici, coltivano, si incontrano in una specie di giardinetto sospeso tra le due case dove coltiva una rosa bianca e l'altro coltiva una rosa rossa e sono amici per la pelle. Un giorno, mentre c'è una tempesta di neve, una scheggia di neve entra nell'occhio di Kai e penetra, arriva fino al suo cuore e praticamente questo bambino diventa freddo, diventa scostante, rifiuta di stare con la bambina, di giocare con lei, la maltratta, se ne va con gli altri bambini, fino al giorno in cui viene agganciata, la sua slittina viene agganciata da una slitta più grande con sopra una bellissima dama tutta bianca, che è la regina delle nevi, che se lo porta nel suo regno. E qui, tra l'altro, ovviamente sicuramente c'è il contatto con la famosa strega del ciclo di Narnia, della saga di Narnia che conoscete tutti, il leone, la strega, l'armadio di Lewis, che un secolo dopo scrisse appunto questa saga, questo ciclo di Narnia, di cui il leone, la strega e l'armadio è il primo volume, e la strega è proprio, a mio avviso, è proprio presa da lì, perché anche questa è una strega di ghiaccio che cattura il bambino, se lo aggancia alla slitta, e quindi un secolo dopo credo che Lewis abbia preso questa figura della regina delle nevi e l'abbia inserita, perché c'è questa costante, ogni tanto si ripresenta questa figura strana, questa figura di donna fredda associata alla neve, ma c'è un motivo per cui viene associata alla neve, che è un motivo molto più profondo e molto più antico. Proseguendo velocemente con la storia della regina delle nevi, Kai sparisce e Gerda non si dà pace e vuole andarlo a cercare. Questa è una cosa che succede spesso nelle fiabe. I fratellini scompaiono come i sette corvi, cigni selvatici, i fratelli scompaiono e la bambina, l'adolescente, va a cercarli, attraversando tutta una serie di prove impegnative. Per una bambina, per un adolescente. Anche in questo caso, Gerda parte per cercarlo, vestita di nient'altro che del suo abitino e del suo sciallettino, ma decide di donare al fiume le sue scarpette rosse nuove perché il fiume la porti da Kai. E questo è il fatto che mi ha fatto scattare il campanellino d'allarme, perché il donare al fiume le scarpette rosse è un simbolo molto forte, perché sapete benissimo che le scarpe, la scarpa, le scarpette, specialmente le scarpette rosse, che Andersen mette in un'altra sua fiaba che si chiama appunto Le scarpette rosse, è il simbolo della vulva praticamente. La scarpa è la vulva, se voi pensate a Cenerentola, se pensate ai piedi, ai loti d'oro delle bambine cinesi che venivano chiuse in queste scarpettine perché dovevano avere i piedi in queste scarpettine di seta rosse, dovevano essere lunghi pochi centimetri, 4-5 centimetri, 6 centimetri, altrimenti queste ragazzine non riuscivano a sposarsi, quindi per poter avere i piedi lunghi così venivano tutti accartocciati, legati. Quindi c'è un significato profondo dietro al fatto di queste scarpette strette e del donare le scarpe al fiume. Gerda dona le sue scarpette rosse al fiume e va scalza a cercare Kai. Sale sulla barca, la barca parte, il fiume decide di accogliere il suo dono, questa barca parte e porta Gerda in diverse situazioni, in diverse avventure che hanno a che fare con delle donne di conoscenza, con delle sciamane, con delle maghe. Indifferenti, prima dentro in un giardino, poi in montagna, poi un'altra nella neve, e queste donne l'avvicinano sempre di più alla regina dei ghiacci. Ci sono poi altri incontri con la figlia dei briganti, diciamo che ogni incontro la figlia dei briganti rimane incantata, un po' come Miss Gear da Snegurochka, la figlia dei briganti, che è la controparte, diciamo, della Gerda, rimane affascinata da questa bambina, dalla sua purezza, dal suo candore. Ancora una volta, proprio come Snegurochka, Gerda riesce a sciogliere il cuore di questa bambina e quindi questa bambina le dona una renna con la quale lei può proseguire, la libera e le dona una renna con la quale lei può proseguire la ricerca. Infine arriva nella terra dei ghiacci, questa regina della neve che tiene prigioniero Kai. Kai non può essere liberato fino a che con i frammenti di ghiaccio non sarà riuscito a scrivere la parola eternità e non si ricorda di nulla perché la scheggia che ha viaggiato fino al suo cuore gli ha fatto dimenticare tutto quello che sapeva, incluso gli ha fatto dimenticare l'esistenza di Gerda. E quando Gerda finalmente riesce ad entrare nella reggia e Kai la vede, lui non si ricorda di lei, ma lei gli corre incontro, lo abbraccia e con le sue lacrime, guardate come sono simili le storie, no? Con le sue lacrime lei riesce a sciogliere la scheggia di ghiaccio nel cuore di Kai e finalmente lui si risveglia, la riconosce l'abbraccia e nel momento in cui questo bambino e bambina si abbracciano, si compone da sola la parola eternità con le schegge di ghiaccio e lui è libero e la regina dei ghiacci è sconfitta. Quindi secondo me ci sono molte relazioni tra la fiaba che dice di aver scritto Andersen e la Snegurcica. Io, questa fiaba di Andersen è stata, il mito dice che lui l'abbia scritta ispirandosi ad una cantante lirica, ad una soprano di cui lui era innamorato, ma che lei lo rifiutò, e quindi lui in questo modo pensò alla Regina dei Ghiacci. Ma a me, francamente, questa versione mi fa un po' ridere, perché io sento che dietro alla figura di questa regina dei ghiacci c'è qualcosa di molto più profondo. E quello che ho sentito, ovviamente non ho le prove di quello che sto dicendo, non ho trovato nessun testo che confermi che ci fossero delle versioni precedenti a quella di Andersen, ma io lo sento fortemente, per cui lo dico. Quello che io vedo in questa regina dei ghiacci è niente di meno che la Grande Madre. Cosa è successo? È successo che quando praticamente sono iniziate le invasioni indoeuropee, quando la cultura della Grande Madre ha cominciato ad essere travolta e sconfitta dalle culture, dalle civiltà guerriere che venivano dal Caucaso, dalla Mongolia, che adoravano il sole, adoravano il fuoco, adoravano i cavalli, tutto quello che era gelo, oscurità, buio è stato immediatamente demonizzato. Perché non c'era più il concetto del ciclo dell'anno, cioè la consapevolezza, la coscienza che anche il buio e la neve hanno il loro senso di esistere, perché il buio e la neve sono il momento in cui la terra riposa, in cui i semi radicano per poter poi nascere quando viene il sole. La civiltà, la cultura, chiamarla civiltà cultura, parlando di guerrieri, non mi sembra intonato, diciamo, queste invasioni, questi indoeuropei che adoravano il sole, adoravano solo il sole, quindi tutto quello che era sole e luce, e calore e fuoco era buono, era maschile, tutto quello che era invece neve, buio, ombra, oscurità era cattivo, freddo, era cattivo e quindi era femmina, era donna, perché comincia la civiltà patriarcale, quindi la donna diventa ciò che non è buono, ciò che non è maschio, il maschio mancato. Ecco, quindi io in questa Regina delle Nevi ci vedo la scrittura del passaggio, praticamente, quando la Grande Madre è stata spodestata dal suo ruolo di dea, di unica dea, perché era un vero e proprio monoteismo. Ed è diventata praticamente la figura, la cattiva, la donna di ghiaccio, la donna senza sentimento collegata alla neve. Perché con la cultura patriarcale tutto ciò che ha avuto a che fare con il freddo, con il buio e con la neve è diventato immediatamente cattivo e da collegare alla donna. Prima, mentre parlavi, Anastasia, mi è venuto da dire che Snegurochka e l'altra ragazza di cui non ricordo il nome erano due parti, due facce della stessa donna, cioè Sneguruchka è la fanciulla. L'altra ragazza si chiama Kupava e proprio è Kupava. come per dire la forza Snegurcica è entrata in Kupava e Kupava è Ok. la sua non tanto controparte quanto la sua evoluzione. Esatto. Quindi Sneguruchka è la fanciulla, è la vergine. E Kupava è la madre, no? È la donna fertile, quindi ecco. È come se, per concludere, diciamo, i tre volti della dea, la regina delle nevi, che io non considero una fiaba di Andersen, ma considero il terzo volto, cioè la madre, la crona, quella che se ne sta nell'oscurità, in attesa che qualcuno scriva la parola eternità e chiuda il ciclo. Ecco, questo mi sta venendo in questo momento. Guarda, Divano, quando hai parlato mi è venuta ancora da condividere con voi questa immagine di quest'asse a cui ho parlato all'inizio, quell'asse a fuoco, terra, che sono due opposte, e che terra, cioè, è sempre stata associata alla donna, alla femmina, alla tenebre, al male e alla morte. E quindi a differenza dell'uomo che è fuoco, bene, amore, eccetera, eccetera. Come è stato proprio secondo questa cultura aria indoeuropea è stato diviso, ma soprattutto non soltanto diviso, ma bloccato il significato, perché queste ruote qua devono girare. Dal momento che si fissano come chiodi questi significati, che per esempio che amore è sempre fuoco e sempre bene, ma non possono girare, possono anche girare. Nella ruota completa, sciamanica, è una sfera e gira. Dal momento che è diventato bidimensionale, si è bloccato. Quindi terra, donna, male. E ovviamente tutti i mali vengono poi a conto fatto attribuita alla donna. Dal momento che queste significate sono state bloccate, tenere, bere, male, terra e donna, ma tenebre, male, odio, per contrapporre all'amore e il dio dell'amore, dio del perdono, quando in realtà è sempre lo stesso asse. Esatto, sì. E forse, guarda, concludiamo proprio con il fatto che Kai e Gerda si abbracciano e la parola eternità si scrive, no? Quindi si chiude il ciclo e la ruota ricomincia a girare.